Capitolo 120. Le figlie di Tespio. Giunto al 18° anno di età, Eracle lasciò le mandre e si preparò ad affrontare il leone del Citerone, che faceva strage tra il bestiame di Anfitrione e del suo vicino re Tespio, chiamato anche Testio. Il leone aveva un'altra tana sul monte Elicona, ai piedi del quale si trova la città di Tespia. L'Elicona fu sempre un monte gaio. I Tespi vi celebrano un'antica festa in onore delle muse e si dilettano in giochi amorosi sulle sue pendici attorno alla statua di Eros, loro patrono. Re Tespio ebbe 50 figlie da sua moglie Megamede, figlia di Arneo, gaia come tutte le donne Tespie. Per timore che esse si unissero a uomini indegni di loro, Tespio decise che ciascuna avesse un figlio da Eracle, che era impegnato tutto il giorno nella caccia al leone. Eracle, infatti, dormì a Tespia per 50 notti di seguito. «Ti darò mia figlia maggiore Procri come compagna», disse Tespio a Eracle con cordialità ospitale. Ma poi fece in modo che a Procri si sostituissero le sorelle una notte per ciascuna, finché tutte si giacquero con Eracle. Altri tuttavia dicono che Eracle le deflorò tutte in un'unica notte e che soltanto una si rifiutò al suo amplesso e rimase vergine fino alla morte, servendo come sacerdotessa nel santuario di Tespia. Perché ancora oggi la sacerdotessa Tespia deve essere vergine. Tuttavia Eracle generò 51 figli dalle figlie di Tespio, perché Procri, la maggiore, ebbe due gemelli, Antileone e Ippeo, e la più giovane altri due. Stanato finalmente il leone, lo uccise con una clava grezza fatta del legno di un olivo che aveva sradicato sull'Elicona. Eracle poi indossò la pelle della belva, le cui fauci spalancate fungevano da elmo. Altri però dicono che egli si rivestì con la pelle del leone Nemeo, oppure di un'altra belva che uccise a Teumesso presso Tebe, mentre il merito di aver ucciso il leone del Citerone spetta ad Alcato. Le 50 figlie di Tespio, come le 50 Danaidi, Pallantidi e Nereidi, o come le 50 vergini che il dio celtico Bran Foroneo deflorò in una sola notte, costituivano probabilmente un collegio di sacerdotesse al servizio della dea Luna. Il re sacro, coi fianchi cinti da una pelle di leone, poteva liberamente godere di loro durante le orge che si svolgevano attorno alla pietra fallica chiamata Eros, Brama erotica. Il loro numero corrispondeva alle lunazioni che si susseguono tra un'Olimpiade e l'altra. Testio è forse una mascolinizzazione di Thea Estia, la dea Estia, ma anche Tespio, dalla voce divina, è un nome accettabile, dato che la grande sacerdotessa aveva funzioni oracolari. Igino cita soltanto 12 Tespiadi, forse perché 12 erano le vestali latine che custodivano il fallico palladio, e pare celebrassero un'orgia analoga ogni anno sui colli albani, al tempo della monarchia romana. La maggiore e la minore delle figlie di Tespio generarono due gemelli da Eracle, il re sacro e il suo successore. I mitografi hanno fatto un po' di confusione, cercando di conciliare la leggenda più antica secondo la quale Eracle sposò la figlia minore, seguendo la tradizione matrilineare dell'ultimo genitura, con i diritti di una primogenitura patrilineare. Eracle, nel mito classico, è un personaggio patrilineare, a parte la discutibile eccezione di Macaria, non genera figlie. La sacerdotessa vergine di Tespia, come la Pizia di Apollo a Delfi, diventava in teoria moglie del dio quando era invasa dallo spirito profetico e non poteva dunque godere dell'abbraccio di un mortale. Pausania, poco convinto di questo mito, scrive che Eracle non poté certamente far cadere il disonore sul suo ospite con la seduzione in massa delle Tespiadi, né dedicare un tempio a se stesso, quasi fosse un dio, all'inizio della sua carriera, e rifiuta dunque di identificare il re di Tespia con il padre delle Tespiadi. L'uccisione del leone era una delle prove imposte a chi aspirava a diventare re sacro. Eracle taglia la sua clava da un albero di oleastro, l'albero del primo mese, che di solito si usava per cacciare gli spiriti maligni.